Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi, siamo alle 11 insieme in diretta, con noi tanti esperti pronti come sempre a rispondere alle nostre domande e fornirci soprattutto gli strumenti per navigare in sicurezza nel mare delle notizie che ogni giorno circolano sul coronavirus. Vi ricordo il numero per intervenire, 349-238-6666, potete mandare i vostri messaggi, i vostri WhatsApp vocali. Intanto vado a salutare il professor Gianni Sava, che è ordinario di farmacologia presso l'Università di Trieste e coordinatore scientifico del magazine della Società Italiana di Farmacologia. Professore, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Professor Sava, partiamo dalla notizia. Ieri l'AIFA ha dato il via libera alla sperimentazione del favipiravir, commercialmente noto come Avigan. Ci fa una sorta di carta d'identità di questo farmaco? Certo. Si tratta di un farmaco che un'azienda giapponese nel 2014 ha messo in commercio solo in Giappone, perché Europa e America non l'hanno riconosciuto e non l'hanno autorizzato, per trattare casi particolari di infezione influenzale, in particolare quelle per i quali gli antivirali tradizionali non funzionavano. Il farmaco in realtà è stato poco in commercio, perché poi si sono accorti che dava alcuni eventi avversi sospetti non controllabili, come la depressione nei pazienti che lo ricevevano, malformazioni fetali se le persone erano in gravidanza, e quindi è stato anche ritirato dal commercio. Torna in auge ovviamente con Covid-19. Sì. Quando i cinesi di fatto hanno cercato di rivedere la scheda tecnica di questo farmaco, che ha come meccanismo d'azione la capacità di inibire un enzima importante che serve per moltiplicare il virus nella cellula, e hanno chiesto l'autorizzazione all'azienda giapponese di poterlo utilizzare, e così facendo hanno messo in piedi uno studio clinico, uno dei oltre 100 studi clinici che sono stati messi in campo in Cina per il trattamento del Covid-19 con diverse combinazioni di farmaci. E alcuni dei dati di questo studio clinico cominciano a comparire. Penso che sia su questa base qua poi che alla fine c'è stato questo movimento relativamente anche all'Occidente, quindi a noi, su questa molecola. Ma mi scusi professore, domenica scorsa l'AIFA aveva sottolineato che al momento non esistevano studi clinici relativi all'efficacia e alla sicurezza di Avigan. È corretto, nel senso che uno studio clinico viene riconosciuto tale quando è pubblicato su una rivista dove revisori e altri scienziati verificano che tutte le condizioni sperimentali siano state fatte con i dovuti accorgimenti. Tutto questo ancora non esiste per questo studio clinico, ma non esiste nessun studio clinico di quelli che sono stati messi in campo per il Covid-19, perché ci vuole più tempo per averli. I dati a cui io mi riferivo sono alcune uscite prima della stampa ufficiale del lavoro che i ricercatori cinesi hanno messo in rete, ovviamente, no? E da questi studi emerge qualche informazione, diciamo, emerge che alla fine ieri l'AIFA ha preso per buono, autorizzando l'impiego, come chiedeva il governatore del Veneto, per il trattamento dei pazienti in Veneto. Viene fuori che nella sostanza, così come già si vide nel caso di Ebola, perché insomma io vorrei fare una precisazione, favipiravir fu usato anche nel caso di Ebola nel 2014, quando ci fu l'infezione in Africa, ricorda, di Ebola, e anche in quell'occasione si ebbero risultati, come andrò a dire ora, non esaltanti, ma qualche risultato c'era, tant'è vero che alla fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo studio pubblicato su una rivista importante come PLOS Medicine disse che insomma favipiravir per Ebola si poteva usare, però avrebbe avuto la possibilità di fare qualcosa se la viremia, cioè la carica di virus che hanno infettato l'uomo, è relativamente bassa, soprattutto non elevata, quindi nei casi molto iniziali. La stessa cosa viene proposto, professore, scusi, viene proposto proprio per le sole fasi precoci della malattia. Esatto. Viene proposto per il Covid-19 nelle fasi iniziali. Ci sarebbe un razionale che non viene menzionato lì, ma che potrebbe avere un suo significato, nel senso che le fasi precoci, se è vero, poi, perché bisognerà dimostrarlo, è sempre questo il problema, no? Se viene confermato lo studio clinico che è stato fatto in Cina, che in questo momento dice che se diamo Avegan oppure se diamo la combinazione più nota come lopinavir-ritonavir, noi abbiamo in una settimana di trattamento il 60% dei pazienti che mostrano un beneficio e quindi una riduzione della malattia. Al contrario, se diamo lopinavir-ritonavir abbiamo il 52%. Come vede, tra 60 e 52% la differenza è molto piccola. È questo che aveva messo un po' in allarme AIFA, che voleva dati un po' più certi. Professore, ma lei è un farmacologo, quali aspettative ha? Beh, allora, proprio che io una battuta. Noi intanto incrociamo le dita, perché ovvio, è naturale, no? Che quando noi ci troviamo ad affrontare una malattia per cui non ci sono ancora terapie specifiche, le notizie o la possibilità che arrivi un farmaco che possa fare la differenza alimenta le speranze. Ma lei è un farmacologo, senza andare a discutere la posizione dell'AIFA che ha concesso l'autorizzazione, l'avrebbe fatto? Che cosa si attende? Allora, io la vedo in questi termini qua, esposo a iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi dirò qual è. E cioè che ma ce la dica adesso, perché noi abbiamo... Sì, bene. Allora, dunque, l'OMS ha messo l'occhio su quattro terapie, che sono quelle che in questo momento stanno facendo emergere i dati più consistenti in termini positivi. Sì. Sono quattro tipi di trattamenti che abbiamo sentito nominare in questi giorni: il remdesivir, che è stato usato per Ebola, la clorochina, l'idrosclorochina, il lopinavir, ritonavir, che ho menzionato prima, da soli oppure in associazione con l'interferone alfa. No beta. Sì, ma lei allora, professore, lei ci fa delle considerazioni troppo tecniche, mi dica no, solo il suo punto di vista. Ecco, sì, volevo dire perché si fanno queste cose. Allora, lo scopo di questo è trattare i pazienti nelle primissime fasi iniziali della malattia, perché si ha contezza che i dati che stanno emergendo fanno vedere che ci sono dei miglioramenti, e quindi questi pazienti potrebbero essere non ospedalizzati, evitando quindi l'interramento degli ospedali e lasciando che gli ospedali possano lavorare più facilmente sui pazienti invece più gravi e complessi. Questo era il principio. Ecco, questo è il razionale. Professor Sava, intanto la ringrazio per essere stato con noi e anche per averci aiutato a capire, ma torneremo sicuramente anche sui farmaci, sugli altri studi che sono stati autorizzati, anche per capire che cosa si fa con i pazienti per i quali la malattia è più avanti. Professore, la ringrazio, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Arrivederci. E noi apriamo lo spazio quotidiano con gli esperti della SIMIT. Oggi in linea con noi abbiamo il presidente, il professor Marcello Ottavio. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Finalmente, professor Ottavio, lei è direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. Come sta andando nelle Marche? Dunque, il sistema è sottoposto sicuramente a un forte stress, però per il momento stiamo reggendo e quindi in qualche modo cerchiamo di valutare con un certo grado di anticipo le mosse che bisogna fare se dovesse peggiorare ulteriormente la situazione, per cui siamo in attesa di ulteriori elementi di giudizio, diciamo così. Professor Ottavio, chiedo anche a lei. il suo parere su questa sull'autorizzazione alla sperimentazione di Avigan, attese e speranze nei confronti di questo antivirale, lei che vive in prima linea, in trincea? Guardi, bisogna dire una cosa importante, bisogna dirlo alle persone prima di tutto. C'è un disperato bisogno di farmaci, di trattamenti che possano fermare la malattia o rallentarla in tutte le fasi in cui appunto si manifesta questo tipo di patologia. Però dobbiamo anche dire una cosa: non si possono fare i farmaci alle persone tanto per fare, e quindi per soddisfare un bisogno così, per calmare l'ansia delle persone e anche dei clinici. Bisogna rispettare delle regole di sicurezza e in qualche modo anche delle regole di valutazione che la comunità scientifica si è data per valutare se una molecola funziona o no, perché non basta uno studio piccolo su 5 pazienti in Giappone, in Cina, in Italia, per dire che quel farmaco si può applicare con sicurezza in tutta la popolazione con quel tipo di patologia. Questo lo si deve dire nell'interesse delle persone, quindi bisogna che ci abituiamo tutti a prendere con le molle le informazioni che ci arrivano sull'uso di un farmaco che non è nato per curare quella patologia, usato in un'altra patologia. Serve prudenza per non alimentare poi delle inutili aspettative che poi vengono frustrate dai fatti. Professor Tavio, noi ci fermiamo e poi, a proposito di farmaci, le anticipo la richiesta di Lello, che ci scrive: se possiamo essere positivi senza saperlo, vorrei sapere se ci sono dei farmaci da evitare o al contrario farmaci da assumere per evitare di sviluppare i sintomi della malattia. La domanda di oggi, tra poco, dopo le informazioni sul traffico, insieme al professor Tavio. Obiettivo salute. Eccoci, siamo tornati insieme in linea al professor Marcello Tavio, presidente della CIMIT. Professore, riprendiamo un po' la domanda di Lello. In questo periodo di emergenza coronavirus, ci sono dei farmaci da evitare o dei farmaci consigliati, come ci scrive il nostro ascoltatore, per evitare di sviluppare i sintomi della malattia? Diciamo che la risposta è no ad entrambe le domande, che sono comunque molto intelligenti, perché sarebbe bello sapere che possiamo prendere un farmaco per evitare che si sviluppi la malattia o addirittura di prenderla. In effetti, per l'influenza, come probabilmente molti sanno, ci sono dei farmaci che possono ridurre la percentuale di persone che la sviluppano, però per questo tipo di infezione non ne abbiamo nessuno a disposizione. Maura ci scrive se ci sono dei metodi o dei test per fare un'autovalutazione della salute del proprio respiro. Ci scrive che ha letto che si devono contare gli atti respiratori in un minuto dopo un breve sforzo, ad esempio 2 rampette di scale o una ventina di piegamenti. Ci scrive: ma è davvero così? Potete dare delle indicazioni più precise? Professor Tavio. Ma dunque, in realtà il parametro, la valutazione più importante che riguarda il respiro non è tanto dopo uno sforzo, ma quanto a riposo. Il limite è quello dei 22 atti respiratori al minuto. Al di sopra di quel numero vuol dire che si ha una fatica a respirare, cioè una fatica, un bisogno di ossigeno che viene soddisfatto dall'aumento degli atti respiratori, che potrebbe essere indicativo di una patologia respiratoria, ma questo va fatto, è una valutazione che va fatta a riposo. Poi diverso è il caso in cui una persona che di solito faceva una rampa di scale senza grossi problemi, se ci mette più tempo del solito a recuperare la normalità del respiro, anche questo è un atto più indiretto, è un sintomo più indiretto di una possibile patologia respiratoria. Però quello che la gente deve ricordare sono i 22 atti respiratori al minuto. 22, 2, 2. non 24, sì. 22. Sarebbe utile, ci scrive Efisio, dire che una volta in casa non serve lavare le mani continuamente, in casa non ci sono motivi di contagio. Conosco persone che hanno consumato le mani senza uscire di casa. È possibile porre le domande ad un esperto? Eccolo qua, Efisio è accontentato, l'esperto ce l'abbiamo, professor Tavio, lavaggio delle mani. Dunque, il lavaggio delle mani è fondamentale, come dice l'ascoltatore, fuori di casa, al rientro in casa. In casa avrebbe solo una giustificazione possibile, e questa sarebbe ampiamente giustificabile, ovvero una persona che abbia dei sintomi respiratori, di un'affezione respiratoria, di un'infezione respiratoria. Allora, in questo caso, non sapendo se è o non è il coronavirus, certo, è comunque sempre buona norma, qualsiasi sia la causa, trattare con attenzione tutte le cose che vengono toccate da questa persona, oppure se è la persona infetta, certo, anche in questo caso vale la pena, anzi è molto consigliato, lavarsi frequentemente le mani per non infettare. Quindi facciamolo spesso, facciamolo bene. Professor Tavio, prima di salutarci e nel darci appuntamento per la prossima settimana, ha una raccomandazione da farci, un consiglio, un augurio, vuole sottolinearci un barlumino di speranza che ci aiuta, di ottimismo? Allora, diciamo questo, che la raccomandazione è sempre la stessa, di non farsi prendere dal panico. Ricordiamoci, sì, che è comunque una patologia che guarisce nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi va affrontata con enorme attenzione, per carità, e sappiamo, stiamo facendo tutti i sacrifici per dominare questo mostro, però ricordiamoci che viene superata dalla stragrande maggioranza delle persone. Lo sforzo che si sta facendo è immane. Io direi che qualche segnale leggermente favorevole potrebbe venire presto da alcune zone del paese che hanno, magari sono state attaccate per prime dal mostro, però io direi che in questo momento dobbiamo prepararci a una battaglia che sarà ancora lunga. Facciamolo con serenità. Grazie professor Tavio, a prestissimo, buon lavoro e grazie. Il suo lavoro. Grazie. Grazie a voi. Allora, io resto a casa e penso, apro così lo spazio quotidiano in cui ci occupiamo del nostro benessere mentale. Oggi ci aiuta il professor Piero Barbanti, un grande amico della nostra trasmissione, primario neurologo al San Raffaele Pisella di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata. Grazie professor Barbanti. Il coronavirus ha cambiato le nostre vite, è entrato prepotentemente però anche nei nostri pensieri. Il cervello che cosa dice, come reagisce? Beh, reagisce con la paura. Quando noi abbiamo un ostacolo di fronte abbiamo due reazioni istintive: scappo oppure lotto contro di lui. Ma non sarebbe questa la parte più logica, è la terza soluzione, cioè quello che gli inglesi chiamano il coping, lo gestisco. È esattamente l'adesione a tutte le regole che tutti gli organi delle autorità sanitarie ci stanno dando. Quest'area della paura che si chiama amigdala diventa arroventata, incandescente, ma ci sono due tipi di individui. Quelli che riescono a far prevalere il filtro della nostra parte razionale, la corteccia frontale, che silenzia l'amigdala, e altri invece in cui l'amigdala fraseggia e va a flirtare con il centro dei ricordi, magari ricordi non tanto positivi, è l'ippocampo. In questo caso sono soggetti che sviluppano più facilmente fobie. Professore, noi siamo animali sociali. Questo isolamento necessario a contenere la diffusione di Covid-19, che effetto eserciterà su di noi? E che effetto sta esercitando? Allora, credo che chiunque di noi abbia trovato quasi una sorta di brivido, ma brivido quasi piacevole, perché è una cosa assolutamente strana e innaturale. L'essere umano è dominato da due importanti sostanze: la dopamina, che è la sostanza del piacere sociale per certi versi, e poi l'ossitocina, che è quella dell'abbraccio. Beh, noi in questa maniera rallentiamo un po'. Ma questo rallentamento intanto ci fa dormire di più e mangiare a orari un pochino più normali, e quindi si allenta quel jet lag sociale, che è una vera e propria malattia, dovuta al fatto che noi abbiamo dei bioritmi ma rispondiamo picche il più delle volte quando siamo convocati per andare a dormire o per mangiare. Quindi in questo rallentamento dei ritmi, anche se innaturale all'interno della nostra abitazione, c'è qualcosa di salvifico per il nostro cervello. Ma professore, noi usciremo neurologicamente provati al termine di questa pandemia oppure no? Io credo che ne usciremo profondamente provati, virgola, ma anche molto in positivo, perché voglio chiudere con una battuta. Noi siamo stati per lungo tempo alla ricerca di cose nuove, usando gli occhi vecchi. Adesso avremo degli occhi nuovi con cui gradiremo le vecchie cose. Questa non è sociologia un tot al chilo, questo è esattamente la riscoperta di un'emozionalità nuova, perché la nostra soglia del piacere si era alzata tanto. Ma c'è un secondo punto: siamo diventati tutti uguali. Questo periodo è una clamorosa democratizzazione di affetti, c'è una sincronia emotiva per cui tutti abbiamo la stessa situazione: paura, un po' di noia, mordiamo il freno, tutti lo stesso auspicio, superare il virus e quindi tornare a uscire, e questa è la base per partire tutti assieme con lo stesso piede. Io credo fortemente che la nostra nazione è così forte quando ci sono i problemi, ricordiamoci i friuliani nel 76 dopo il terribile terremoto, o l'Italia del dopoguerra, sapremo fare di necessità virtù, e essendo più coesi e tutti sincronizzati, perché tutti abbiamo le stesse esigenze, poter ripartire più forte con un rinnovato entusiasmo. Quindi, un'altra cosa, anche per i nostri ragazzi, aver capito che esiste la sofferenza e che esiste la morte è un qualcosa di estremamente positivo, perché serve per valorizzare la vita e quindi per avere una migliore gestione della propria esistenza e un maggior rispetto di quella degli altri. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi e per aver acceso con noi questa riflessione che ci portiamo un po', su cui rifletteremo anche nel corso della giornata. Grazie, buon lavoro, buona giornata, e io mi trasferisco in cucina, ma no, forse in dispensa, insieme al dottor Arzegovesi, il nostro medicuoco, quasi cuoco. Buongiorno. Sta presente. Dottor Arzegovesi, l'ho persa, dove era finito? In frigorifero, in dispensa? No, stavo ravanando in dispensa a cercare cose che di solito buttiamo, invece come poterle valorizzarle al meglio pensando alla salute in questi nostri prossimi giorni. Che cosa ha trovato di buono oggi? Oggi ho trovato del pane vecchio, il pane raffermo. Ah, io ce l'ho, ho fatto il pane ed è duretto, perché bene, due giorni. Fatto perfetto. In casa? Sì, fatto in casa. Vabbè, quindi le sa tutte, ma le fa anche tutte. Questa è, le faccio, ne so poche, ne faccio molte, spesso sbagliate, ma il pane l'ho fatto ed era fermo. Ecco, pane vecchio, primissima cosa importante, pane vecchio uguale amido retrogradato, cioè amido resistente, che vuol dire in sostanza diventa più duro, e nel diventare più duro, diciamo più cristallino, non viene più attaccato dai nostri enzimi, e già queste sono calorie che risparmiamo quando mangiamo i carboidrati, ma in più dà da mangiare in maniera assolutamente prelibata e preziosa ai nostri batteri intestinali amici. Quindi consideriamolo a tutti gli effetti una risorsa importantissima, però perché ci vuole la cucina, perché il pane raffermo di sua natura è un pane che ha gusti e consistenze che sono tutt'altro che attraenti in prima battuta, e quindi dobbiamo trasformarlo. Facciamo delle briciole, velocissimamente cosa vuol dire? Lo spezzettiamo con un batticarne in pezzi piccoli, se è molto molto duro lo facciamo girare con un frullatore a bicchiere, saltiamo in padella, un filo d'olio, trovate tutto nella traccia audio che vi ho fatto per oggi. Grazie al dottor Stefano Arzegovesi, ad Alessandro Marco Tulli in assistenza, a Peter Bescapè in regia e a Laura Vanossi in redazione. Torno domani. Un bacio.